Oh, iniziamo stagione 2025-2026 ITC Teatro, Compagnia Teatro dell'Argine. Abbiamo una finta diretta estesa con diverse argomentazioni. Cominciamo con Micaela Casalboni per dare il via al quando e al come si comincia, con quali contenuti. Non è una domanda facile, però cercheremo di trovare un assunto di insieme. Buongiorno Buongiorno a voi tutti e tutte, è sempre un grande piacere essere qua. Grazie per lo spazio che ci date, per l'ascolto che ci date. Dunque, la nostra stagione che arriva sarà una stagione ricca più che mai di 1.000 appuntamenti. Più del solito ce ne saranno, sia numericamente che anche divisi in più giorni. Abbiamo, dal punto di vista, diciamo così, della stagione, quella serale, accanto agli spettacoli, anche sempre i nostri appuntamenti collaterali, l'aperitivo con le parole del teatro, gli incontri post-spettacolo dove ci sono esperti, teatranti e giovani che discutono di temi. Come sapete, per noi è fondamentale che lo spettacolo diventi anche un'occasione di incontro, di fare comunità, anche con chi non è uno spettatore, un'aspettatrice consueta, ma che capita per di là. Come sempre avremo grandi nomi della scena italiana, quest'anno in particolare avremo con noi Virgilio Sieni, grandissimo maestro della danza, che è la prima volta che arriva all'ITC Teatro, che porterà un suo lavoro del 2006 che si intitola Sonate Bach, dove ci sono questi 11 quadri dedicati a 11 città che allora erano in guerra, e purtroppo una di queste è Gaza, che lo è ancora. Un lavoro di danza straordinario, ma che parla anche a chi non ama la danza. Tra quelli che noi consideriamo un po' i maestri avremo Babilonia Teatri con Abracadabra, che è un lavoro dove insieme a Enrico e Valeria in scena c'è anche questo mago Scimemi, perché attraverso il tema della magia e della prestidigitazione si parla della dipartita, dell'andarsene. Uno spettacolo che ci stupisce, allo stesso tempo ci affronta su questo tema. Qua. Terzo maestro è un maestro che non c'è più ma c'è sempre, sarà una serata speciale dedicata a Eugenio Allegri, regista, attore formidabile, formatore, anche amico nostro. Arriverà lo spettacolo diretto da Gabriele Vacis con i giovani della compagnia Potenziali Evocati Multimediali, che metteranno in scena Novecento, che era uno dei cavalli di battaglia di Eugenio, così poi lo ricorderemo. Poi avremo spettacoli al confine tra le discipline. Oltre a Sieni, che ho già nominato, ci sarà Giuliano Santolini, che è il coreografo dei Sotterraneo, per chi li conosce, ma è anche un grandissimo attore e danzatore, fa una cosa divertentissima di teatro e danza, anche partecipato con il pubblico. Abbiamo Lorenzo Maragoni, mitico, che tra teatro e poetry slam ci porta dentro un mondo divertente, affascinante. Porta ben due spettacoli, in uno dei due anche si parla di algoritmi e di cosa fanno gli algoritmi ai rapporti tra le persone. Poi avremo i Gordi, fantastici, l'anno scorso hanno riempito il teatro, tornano quest'anno con Pandora, solito teatro senza parole, fatto di maschere, musica, movimento formidabile, che si svolge in un bagno pubblico, e tutta l'umanità che passa dentro a un bagno pubblico formidabile, veramente non perdetelo. E poi vi cito la scelta di Roger Bernard, regista della scena internazionale, ha fatto uno spettacolo insieme a Qui e Ora Residenza Teatrale, dove al pubblico viene chiesto di visionare video di alcuni spettacoli e fare sostanzialmente la direzione artistica. È un lavoro estremamente partecipato con il pubblico. Infine, nuova drammaturgia, Nicolò Fettarappa con una sua pazza riflessione dal titolo La Sparanoia, che non era ancora passato a Bologna, e Francesca Astrei, che ha un astro nascente, veramente una grandissima attrice, che porta questo lavoro molto anche divertente, ironico, autoironico sul tema della depressione. Poi tanti altri giovani. Quest'anno riprendiamo anche ben 5 nostre produzioni Argine, non lo facciamo mai di riprendere tutta sta roba. Tante. Ma quest'anno ci sono temi che ci stanno a cuore. Primo fra tutti Il Labirinto, che è lo spettacolo in realtà virtuale che qualcuno di voi avrà visto anni fa, sarà tra pochissimo, a fine settembre, quindi affrettatevi, perché è uno spettacolo per uno spettatore alla volta. Poi riprenderemo Casa del Popolo, La Luce Intorno, Miserella, Liberata, che portano dentro temi come la migrazione, lo stare insieme, come si affronta la mezza età, la violenza domestica, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo una stagione junior con spettacoli formidabili di teatro per le nuove generazioni e le famiglie, dove ci sono le fiabe classiche, ma anche spettacoli che portano avanti temi interessanti come la guerra o come la possibilità di sbagliare senza che questo diventi drammatico. E tra questi cito uno spettacolo cileno che sarà ospite nostro, dal titolo Lavarropas, cioè lavatrice, dove parlando della diversità degli abiti che stanno in una lavatrice si parla di com'è bello che al mondo siamo tutti diversi. E ogni tanto i colori vanno anche un po' in confusione, ma troviamo delle nuove creazioni estetiche. Guarda com'è venuto bene nonostante abbia sbagliato. Invece vedi? È così, questo lenzuolo è meglio rosa di come sì. Era quando era bianco, esattamente. Poi avremo, come sempre, laboratori, progetti speciali, politico-poetico, il progetto europeo che avrà il suo debutto a Stoccolma. Stando sulla stagione, chiudo con due progetti speciali. Ai primi di ottobre c'è una nuova rassegna che si intitola Emergenze, dedicata a quattro giovani compagnie del territorio, dell'area metropolitana bolognese, che portano temi che stanno a cuore alla loro generazione: il problema dello smacco e dello spaesamento generazionale, dell'ecologia e dell'equansia, degli stereotipi di genere. Insomma, quattro lavori di compagnie che non avete forse ancora sentito, ma sentirete sicuramente. Poi, insieme al Comune di San Lazzaro, il 7 e l'8 ottobre, l'Argine, insieme all'Arci di San Lazzaro, collaboriamo per fare degli eventi dedicati alla Palestina, grazie anche all'arrivo sul nostro territorio di alcuni attivisti del villaggio di Attuani, che è il villaggio che è protagonista anche di No Otherland. Ci sarà un laboratorio con bambini fatto in mediateca e uno spettacolo teatrale con un cuoco e raccontatore palestinese, Omar Suleiman, che racconta mentre cucina, e alla fine si condividerà una cena comune con chi vorrà partecipare, e anche una cena di raccolta fondi insieme a Mediterranea e a Operazione Colomba. Sensibilità, intensità, talento, impegno, eterogeneità, pur con una continuità totale tra tutti i fili conduttori che portano gli spettacoli a ITC Teatro. Sono rimasto incantato dalla tua presentazione, ti ringrazio per aver coinvolto non solo la nostra emittente, ma appassionate e appassionati per un grande incontro, sempre e comunque a teatro. Grazie Michela. Grazie a voi, vi aspettiamo con gioia.